Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Incendio in una palazzina del quartiere di San Gottardo, la periferia est di Udine. Il fumo ha invaso diversi appartamenti che sono stati evacuati. Da ieri al pronto soccorso dell'ospedale di Udine i casi meno gravi vengono affidati ad una cooperativa alla quale è affidato l'ambulatorio dei codici minori. Il modello potrebbe essere esportato a Palmanova. Oggi l'assemblea dei lavoratori di Varzil ha confermato la mobilitazione del 7 luglio per tutti i metalmeccanici del nord. A Bagnoli lo sciopero sarà di 8 ore anziché 4. Nel pomeriggio in provincia di Pordenone l'inaugurazione della bretella a sud collega la Ponte Bana con l'Interporto, un'opera attesa da anni e costata oltre 40 milioni. L'intelligenza artificiale cancellerà in Friuli Venezia Giulia oltre 106.000 posti di lavoro. A dirlo un'indagine di Confartigianato. Tilatti, l'automazione richiederà nuovi profili. Le trascrizioni dei figli di famiglie arcobaleno. In regione nessun comune ha proceduto alle registrazioni. Quando all'anagrafe compaiono i nomi di entrambi i genitori vuol dire che si è proceduto con l'adozione speciale. Tutto sommato buone le condizioni di salute del nostro mare. Ora a preoccupare è un nuovo rischio, la presenza di residui di farmaci portati in mare dalle acque reflue. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina, Dario Ronzoni. Apriamo questa edizione con la cronaca perché questa mattina a Udine un incendio è scoppiato in una palazzina di Udine nella periferia est del capoluogo. Gli aggiornamenti in questo servizio. Intorno alle 10.30 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in via Bariglaria 24 a Udine, interno 6 scala B. A prendere fuoco per cause ancora in corso d'accertamento un appartamento posto al primo piano di una palazzina di 4 piani. Le fiamme si sono subito propagate agli altri appartamenti. Tutte le squadre dei vigili del fuoco coinvolte provenienti da Udine, Cividale, Gemona e il carro aereo. 5 le persone portate in salvo e un cagnolino con 2 autoscale e 3 accompagnate dal 118 per accertamenti al Santa Maria della Misericordia. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. È appena entrata in servizio all'ospedale di Udine la cooperativa esterna alla quale è stato affidato l'ambulatorio dei codici minori nel pronto soccorso dell'ospedale della città. Non è la prima volta che questo servizio viene esternalizzato del tutto o in parte, è già accaduto a Monfalcone e il modello potrebbe essere esportato anche a Palmanova. Si chiama ambulatorio per i codici minori. Al pronto soccorso di Udine ha debuttato ieri, affidato a una cooperativa esterna, la Amaltea di Vercelli, che ha vinto la gara. Fornirà un minimo di 6 medici per la gestione dei codici minori. L'equipe, formata da un dottore e un infermiere della stessa azienda sanitaria, opererà per tutti i casi di bassa complessità assistenziale. L'obiettivo è avere 2 flussi separati, quello per i codici minori, il 40% del totale, che non dovrebbero più vedersi scavalcati dall'arrivo in ambulanza di codici gialli e rossi, e poi uno per i codici più gravi. Lavoreranno in 2 laboratori appena dopo l'area triage, che resterà comune a tutti, 12 ore al giorno il primo mese, poi lungo tutto l'arco delle 24 ore. È la prima volta che una cooperativa esterna dà manforte al personale dell'azienda sanitaria in un capoluogo regionale. Il modello è partito qualche anno fa dal pronto soccorso di Monfalcone. Se avrà successo verrà esportato anche a San Daniele e Palmanova. Una modalità che non dovrebbe garantire un risparmio rispetto al cosiddetto gettonista, la tariffa oraria è sempre la medesima, circa 100 euro, ma è pensata in un'altra ottica. Mario Calci, direttore del pronto soccorso di ASUFC. Avere una cooperativa che garantisce del personale che noi possiamo di cui possiamo verificare la qualità e che dia continuità per noi è importante, perché si tratta di un lavoro di interazione quotidiano nel quale il lavoro di verifica e di messa a punto della loro professionalità mi coinvolge personalmente, quindi io posso garantire e verificare che questo lavoro sia fatto in maniera adeguata. Assieme ai concorsi è una delle direzioni in cui si sta muovendo l'azienda per reclutare gli 8-9 medici che mancano all'appello in pronto soccorso. Davide Turello, direttore sanitario di ASUFC. Reclutare anche medici non specialisti, ma che hanno avuto esperienza di N mesi all'interno di aree di emergenza pronto soccorso. Abbiamo avviato le procedure anche per permettere agli specializzandi, qualora desiderino, di effettuare 8 ore a settimana all'interno dei pronti soccorso. È sempre aperto il bando per liberi professionisti, al quale tra l'altro stanno aderendo anche dei professionisti stranieri, figli di emigranti friulani che conoscono quindi la nostra lingua. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Continuiamo sempre con i temi della sanità. 69 contratti a tempo determinato di sanitari assunti da ASUGI saranno prorogati fino al 31 dicembre, oggi l'annuncio. Sul tavolo della prefettura a Trieste c'è la deroga per l'assunzione dei 69 lavoratori ASUGI con contratto a tempo determinato in scadenza al 30 giugno. La firmano i sindacati CGIL, CISL e FIALS. La UIL non partecipa. Riguarda infermieri e operatori sociosanitari. Erano stati superati i limiti di spesa, aveva fatto sapere la direzione centrale di ASUGI, ma ieri la regione era intervenuta per risolvere la situazione. Giorgio Jurkic, CISL. A noi interessa l'incontro di oggi, era l'unico incontro ufficiale, tutto il resto sono chiacchiere. Tutto quanto si è sbloccato poche ore fa, quindi grazie al nostro intervento insieme alla CGIL e alla FIALS di aver fatto stato di agitazione abbiamo risolto questo problema. L'assessore regionale alla sanità Riccardi risponde che il blocco è stato superato con la revisione del limite di spesa e per questo oggi la regione non era presente in prefettura. Competenze professionali troppo importanti per rischiare di perderle, conclude Riccardi. Lo sblocco costerà ad ASUGI circa 10 milioni di euro, ma in ballo rimangono altri contratti in scadenza, circa 350 tra dirigenza e comparto sanitario, oltre alla prossima scadenza dei 69 in deroga fino a dicembre. Mafalda Ferletti, CGIL. Hanno avuto un'autorizzazione in deroga di una nota di questa mattina, quindi insomma non in precedenza, con una nota che autorizza in deroga fino a che la regione non ridefinirà i tetti di spesa che sappiamo adesso può fare grazie a questa sentenza della Corte di qualche giorno fa. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Questa mattina nello stabilimento di Bagnoli della Rosandra si è tenuta un'assemblea dei lavoratori di Varzila per commentare gli esiti deludenti dell'ultimo vertice che si è tenuto a Roma. Sentiamo com'è andata. Attesa e preoccupazione. Gli oltre 300 addetti della produzione di Varzila vivono così queste settimane decisive per il futuro loro e di un pezzo importante della storia dell'industria triestina. Stamattina l'assemblea in cui i rappresentanti di Fionfim e Wilm hanno riferito gli esiti già noti del tavolo di lunedì in cui non si è trovato un accordo sugli ammortizzatori sociali. Le uniche speranze sono ormai riposte sull'iniziativa del governo che si è attivato per trovare una soluzione di alto profilo, come l'ha definita il ministro Adolfo Urso. Dell'azienda invece non ci si fida. Potrebbe essere un futuro legato all'idrogeno, magari con il sostegno dei fondi del PNRR, quello dell'impianto di Bagnoli della Rosandra. Ma bisogna fare presto perché mancano ormai solo 3 mesi al termine dopo il quale cominceranno i licenziamenti. I sindacati attendono delle risposte entro luglio e, proprio per tenere alta l'attenzione, venerdì 7 lo sciopero dei metalmeccanici del Nord Italia convergerà a Trieste proprio sulla vertenza Varzila, dove la stensione del lavoro sarà non di 4 ma di 8 ore. Le modalità della protesta vengono discusse proprio in questi minuti. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia è tra le 5 regioni italiane con il maggior addensamento di occupati in settori ad alto rischio a causa dei processi di automazione. 106.157 lavoratori, pari al 29,3% degli occupati. È il primo dato che emerge dall'analisi compiuta dall'Ufficio Studi Confartigianato Nazionale. È un fenomeno che riguarda anche le piccole e medie imprese, incluse quelle artigiane. Il dato che evidenzia come sul mercato del lavoro cambierà il contenuto delle posizioni lavorative, commenta il presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, Graziano Tilatti, e si attiverà una consistente domanda di formazione e riqualificazione dei lavoratori. Il processo, peraltro, è già in atto e ciò che rileviamo, continua Tilatti, è che l'automazione non toglie posti di lavoro, ma richiede nuovi profili. La sfida per imprese e lavoratori è quella della formazione, sia per chi fa impresa, sia per chi vi opera. L'indagine ha individuato 20 settori ad alto rischio automazione. Sono attività legate alla ristorazione, fabbricazione di prodotti in metallo, trasporto terrestre mediante condotte, servizi per edifici e paesaggio, industria alimentare, abbigliamento, fabbricazione di auto, raccolta rifiuti, fabbricazione apparecchi elettrici e via dicendo. Si tratta, distribuendo la tipologia delle aziende in questi settori, si evince che il 14,8% di quelle artigiane è coinvolta in un processo ad alto impatto di intelligenza artificiale, ben il 63% delle medie e piccole imprese. In Italia il 25,4% dei nuovi lavoratori nel 2022 è stato esposto all'intelligenza artificiale con un indice superiore alla media, una percentuale che scende leggermente in questa regione. In pratica quasi un quarto di coloro che hanno cominciato a lavorare l'anno scorso ha dovuto misurarsi con le conoscenze e le abilità che richiede l'intelligenza artificiale. Il tempo, cielo da sereno a variabile sulla regione, queste le temperature. A Trieste 24 gradi con mare quasi calmo con temperatura di 22 gradi, a Gorizia 26, a Pordenone 25,5 gradi, a Udine anche 26 gradi, a Tolmezzo 22, a Treviso 21, a Sappada 20 gradi, a Forni di Sopra 19,5 gradi e sul Piancavallo 15 gradi, in montagna su Lussari 13 gradi e sullo Zoncolan 10. Sulla costa a Legnano 27, a Grado 25, con temperatura del mare nelle due località di 22 gradi. Le previsioni: questo pomeriggio avremo cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana, i venti saranno a regime di brezza e l'atmosfera sarà gradevole. Domani cielo da variabile a nuvoloso con rovescio, temporali sparsi più probabili dal pomeriggio e in serata. Soffieranno venti da sud o sud-ovest moderati nelle ore centrali. Questo pomeriggio sarà inaugurata nella periferia di Pordenone la bretella che collega zona dell'interporto con la Pontebbana. È arrivato il giorno dell'inaugurazione della bretella sud, l'apertura nel pomeriggio con il presidente Fedriga. La circonvallazione completa la viabilità di interconnessione tra la strada statale 13 Pontebbana e l'autostrada A28, collegando direttamente l'interporto di Pordenone. Un'opera attesa da anni, costata oltre 40 milioni di euro e lunga appena 2,5 chilometri. Comprende anche due rotatorie e la riqualificazione in intersezione rotatoria dell'incrocio tra via Udine e via Levade. L'infrastruttura ha previsto pure la costruzione di un sottopasso alla linea ferroviaria Venezia-Udine e di una galleria artificiale di 300 metri tra case e attività produttive. Cristina Amirante, assessora regionale alle infrastrutture. È un tratto di strada sì breve ma molto lungo per quanto riguarda il tratto in galleria. Si sa che una galleria realizzata in un contesto già urbanizzato, addirittura urbano residenziale, come nel caso di specie, ha dei costi importanti. I tempi dipendono dalla necessità delle ferrovie di poter consentire il transito dei mezzi ferroviari contemporaneamente all'esecuzione dei lavori. L'assessora annuncia poi il prolungamento della circonvallazione sud fino alla zona industriale di Valle Noncello. Prossima opera, il ponte sul Meduna. Già completamente finanziato, progettato per la prima parte, il primo step, e adesso di prossima assegnazione con delegazione dalla regione nei confronti di Friuli Venezia Giulia Strade. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'idrogeno verde è il vettore energetico ideale per le operazioni del porto di Trieste. Lo sostiene una ricerca dell'Università di Padova e di quella di Trieste che hanno riconosciuto la sostenibilità ambientale ed economica dell'idrogeno verde, cioè prodotto con elettrolizzatori alimentati da elettricità rinnovabile, rispetto ad altri tipi di idrogeno. Il lavoro, pubblicato sulla rivista Applied Energy, ha sviluppato diversi modelli di simulazione predittiva e l'idrogeno verde è risultato quello con le prestazioni migliori e i costi più bassi. Dal nostro studio si può evincere che l'idrogeno andrebbe sfruttato solo per un utilizzo locale oppure per applicazioni in cui l'elettrificazione non costituisce un'alternativa realizzabile. Questo è quello che sostiene Alberto Bertucco, coordinatore della ricerca. Previsioni da bollino rosso per la mattinata e il pomeriggio di domani lungo la A4 in direzione Trieste. Rallentamenti e code sono previsti nei pressi dei cantieri per la terza corsia. Lungo la A57 ci saranno rallentamenti sul tratto Terraglio, bivio A57-A27. traffico intenso anche sabato in direzione Trieste. Code sono previste alla barriera dell'Iserte e ai caselli di Latisana, San Donà, San Stino di Livenza e Cessalto. Nella sera di sabato verrà chiuso il tratto autostradale tra Latisana e Porto Gruaro in entrambe le direzioni dalle 20 fino alle 6 di domenica. Durante la chiusura notturna verrà completata la stesa dell'asfalto drenante per la terza corsia. Alla riapertura domenica i mezzi potranno muoversi sul nuovo manto stradale in direzione Trieste, ma per alcuni giorni la circolazione resterà limitata a due corsie finché non sarà conclusa la stesa dell'asfalto anche nella carreggiata opposta. Le polemiche sulle impugnazioni da parte delle procure di registrazioni all'anagrafe di figli di coppie omosessuali hanno riguardato finora le città di Padova e Milano. Nessun caso in regione, ci spiega perché il referente regionale delle famiglie Arcobaleno. Centinaia di bandiere arcobaleno hanno invaso le piazze italiane in questo mese di giugno. A Pordenone si è tenuto il primo Pride con oltre 4.000 partecipanti proprio nei giorni della polemica scoppiata a Padova dopo l'impugnazione da parte delle procure degli atti di nascita dei figli delle coppie omosessuali. Ci siamo chiesti perché casi di questo tipo non siano accaduti in Friuli Venezia Giulia. Perché in Friuli Venezia Giulia non ci sono comuni che hanno dimostrato la volontà di trascrivere gli atti di nascita con due mamme o due papà. Eppure in regione sono una ventina le coppie dello stesso sesso che hanno figli assieme, solo 5 però i casi in cui risulta la presenza di entrambi i genitori all'anagrafe dei propri comuni. In questi casi il riconoscimento è avvenuto dopo la cosiddetta stepchild. È un percorso a cui si ricorre per garantire la tutela del minore, ma non è un percorso immediato come una trascrizione che produce un effetto immediatamente. La stepchild vuol dire passare anni attraverso giudici, assistenti sociali, psicologi. Il nostro intervistato è unito al proprio compagno da 23 anni. I loro bambini, due gemelli, sono nati con gestazione per conto d'altri. Il riconoscimento del secondo papà in Italia è stato fatto dopo anni di iter giudiziario. I bambini sono nati in California, in America, e poi abbiamo iniziato un percorso della stepchild che è durata più o meno 3 anni con assistenti sociali che ci dicevano, loro sono abituati a vedere dei casi problematici, degli abusi sui minori, situazioni familiari problematiche. Nel nostro caso c'era una famiglia che loro vedevano essere felici, i bambini erano sereni e quindi sembrava quasi una violenza da parte loro entrare così nella nostra famiglia per decidere se mio marito era degno di poter adottare quelli che erano già in realtà i suoi figli. L'utero in affitto in Italia è un tema che ancora provoca divisioni e polemiche, soprattutto sullo sfruttamento della donna che partorisce per conto d'altri. Chiediamo se non sarebbe più semplice adottare un bambino che magari una famiglia non ce l'ha ed è desideroso d'amore. La risposta è semplice, perché in Italia una coppia omosessuale, una coppia di papà, una coppia di mamme, così come anche un singolo, non può adottare. Il desiderio di genitorialità è profondo e non ha genere. La società nella quotidianità lo rispetta. Tornati dall'America con i bambini, ci siamo trovati alla porta del condominio un fiocco rosa e un fiocco azzurro a simboleggiare la festa per la nascita di questi due bambini. Ovvio, noi ci presentiamo, raccontiamo la nostra famiglia alla scuola, in ospedale per le visite. Da parte di tutti non c'è mai stato un rifiuto, almeno così apparentemente, ma credo anche nei loro cuori. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il nostro mare gode di uno stato di salute buono, ma preoccupa il residuo dei farmaci portati in mare dalle acque reflue. Sentiamo Paola Del Negro, direttrice generale dell'OGS, stamattina ospite a Buongiorno Regione. Oggi il mare è meno caldo rispetto a giugno 2022. Grazie alle precipitazioni dell'ultimo mese, lo strato superficiale è molto più dolce. La colonna d'acqua non è più omogenea ma stratificata e questo consente lo sviluppo di una comunità che è diversa dall'estate scorsa. Quest'anno, infatti, non abbiamo assistito al fenomeno delle meduse. Questi strati d'acqua diversi, in realtà, considerando tutto il mare, sono come dei fiumi, delle strade che si accavallano, e quest'anno questa separazione, unita anche all'assenza di giornate di vento da sud che spingevano le meduse verso il nostro golfo, ha fatto sì che effettivamente non abbiamo visto questo spettacolo molto distruttivo e pericoloso per il mare, perché ricordiamoci che le meduse, per quanto magnifiche, sono dei predatori molto importanti e mangiano uova e larve di pesci. La qualità del mare Adriatico è buona, ma c'è un nuovo rischio, quello degli antibiotici e degli ormoni che usiamo sempre di più e che rendono l'ambiente marino antibiotico resistente. Se abbiamo capito e ci siamo adattati a comportamenti virtuosi riguardo ad esempio alle plastiche oppure anche a tutti i derivati dei combustibili fossili, cerchiamo di fare attenzione agli scarichi, sono molto controllati. Adesso dobbiamo fare attenzione all'impatto in mare di queste altre sostanze chimiche che sono veramente molto concentrate in questi ultimi periodi. Trieste, Vaciuti, GR Friuli Venezia Giulia. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Dario Ronzoni. In regia per la parte tecnica Giampaolo Zucchi, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.